guarda, boh, cioè, questo nuovo anno come sarà, mamma mia. Nel documento dice quando finirà la Berlusconi ci metteranno un altro e sarà peggio, non ti preoccupare. Allora cominciamo a metterci la tassa Matasa e diranno peggio che ha votato Berlusconi per 6-7 anni, quindi avremo 7 anni di tasse, te lo dico io, dopo di quanto stiamo parlando adesso. Non è che sta per fare uno quando non c'è più niente, c'erano anche con Zola, Equitalia, anche lì stanno piantando un sacco di casini, e che tasse mettono? Quando non uno ha nessuna entrata, poco da mettere tassi, ma se uno c'ha la possibilità non le paga, c'è poco da fare, è tutto un giro veramente schifoso, veramente schifoso. Purtroppo l'abbiamo voluto noi entrare in Europa, adesso ne abbiamo le conseguenze. Se non fossimo entrati in Europa, avremmo voluto ancora la lira e forse qualche cosa avremmo, siamo riusciti a fare. E invece, purtroppo questi parametri che ci sono, dobbiamo rispettarli. E se scende in basso, si è incasinato. Lo so, speriamo di uscirne fuori. Uscire fuori dall'Europa e tornare come prima, sempre se questa idea la mettono in atto. E mentre vanno buttando sempre Berlusconi da una parte e Berlusconi dall'altra, e c'è stare lì a pensare come risolvere i problemi, solo a queste affrontate stanno pensando, ma chissà il prossimo anno, ma poco ci spero io comunque, perché sinceramente. Si vede anche a Sassi, non ci sono neanche più macchine in giro, sempre da Nieta, è vuoto, prima c'era un traffico allucinante durante la settimana e a fine settimana, adesso è proprio vuoto, tranquillo, no? Non c'è più quel movimento con fronte a prima, è proprio morto a Sassi, è una cosa incredibile. Poi vediamo un po', nel caso organizziamo qualche rapina, vediamo un po' di dividere un po' la situazione, dai. Vediamo bene il piano e ci facciamo un po' di soldini. Stasera guarda, ci incontriamo in Piazza d'Italia davanti al monumento, così non ci riconosce nessuno, e parliamo di questa rapina a mano armata, andiamo col pisello in mano, diciamo togli fuori tutti i soldi, se no te la mettiamo dietro e andate a fare i pompini tutti e due. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera, buonasera Antonello, Ossidandia, ma perché sei così basso? Scusa, avevo, stavo lavorando questa scena qua, eccomi qua, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, sei sempre basso Antonello, non sei forte come le altre volte, ti ascoltavo molto, molto bene le altre volte, adesso sei un bel basso. Un bel passo, è tutto perfetto qua, no, è tutto regolato, chiuso, aperto, è tutto perfetto, no, normale come prima, sempre lo stesso. Quanto ti è arrivato a te lì a casa tua, Antonello? Santiago 5, radio 5, con sempre lo stesso segnale. Mi arriva sempre uguale, 9.40 qua, la di 5, con Giuseppe. Cos'è? Non ho capito, Antonio. Mi arriva sempre uguale, 9.40, è radio 5. Certo, a me mi arriva basso, un bel basso. Mi arriva la radio 5, il segnale quasi 7, ma a volte arrivava anche 9.10 qua. Sempre uguale qua, la verità si dica. Non lo so, Giuseppe. Non lo so, io quanto sto arrivando lì a casa tua, Tomè? 9.10, sì, è uguale. Aspetta, controllo stazionario, ma ci sono canali. Non ho capito, ma c'è un bel QRM, se invece. E QRM c'è più che altro. Avanti, Antonello, di Ossilandia, Osso, Andia, andiamo. No, io come stazionare sono a posto, uno quasi uno, sempre lo stesso, non cambia niente. No, è tutto a posto qua. Aspetta. Ale, sempre lo stesso, sì, sempre lo stesso. C'è un bel QRM, dunque. processerò anche per quello, capito? E quello è me, Giuse. E capa. Scusate un attimo, è rientrata mia figlia da scuola, sentiamo tra poco. D'accordo, Antonè. E allora Giuseppe. Antonello. Via. Claudio, telefonato te. Negativo. Boh. Entrerà dopo, penso, dove sarà, che magari l'ha addormentato adesso. Sta facendo riposino, magari già chiamerà dopo. Esatto. Mi è salito la canola pesca e adesso costruisco l'antenna stasera. E chi è che ti ha salito la canola pesca? San Piero ce l'aveva la canola pesca. E me l'ha regalata e adesso costruisco l'antenna. Dove la metti? Dove la metto? Qua la lascio io. Se... se funziona prima, è prima per la corda sta bene. Ah, cazzo. Ma simile a quella che avevi fatto a me, Antonio. Sì, devo ancora costruirla, la verità. C'è la canola aperta, ma non ho fatto niente ancora. Adesso non so. Secondo me la piazza davanti va la canola a pesca. Così non utilizzo il filo, utilizzo solo il filo di rame e l'è fatta la mantova, più leggera. Adesso vediamo un po'. Devo tagliare con un seretto quelle caffette d'acciaio per il palo e poi vedi, si vedrà. Ma magari funziona, c'è un stazionario, mi dite di strano. Quando ci metto la canola aperta, tiro tutta sopra, con filo di rame, qui ne arrivo a 7 metri, 4 centimetri. E magari becco anche la colla tua, c'è 1 e 1, guardate le immagini. La mantova ridotta. E cappa. Pesante quella mantova, non so. Adesso come adesso pesa un chilo. No, una cosa del genere, un chiletto. Viene male stata da qua, a casa no. Lo so, vedo qua quando piacerai le gatte già avrebbe leggere, già voglia. E cappa. Prima la provo qua se funziona bene. Se poi funziona bene si piacerà là. Salì, dai. Ciupi giù. Poi guarda, mi vive propagazione brutta, in tutto c'è americani, russi. Papà, sei Rodino, ho sentito c'è, no? Sì? Rodino, Antonio. No, non ho sentito per niente. Stava lavorando, esce alle 5. Sta lavorando? Sì, senz'altro. Penso di sì. Non ho sentito per niente Baracchino. Ciao. Va bene, ci sentiamo dopo. Vado, mi traio 10 minuti e poi ci vediamo stasera, va? Alle 4:30. E d'accordo. Ci sentiamo dopo, là, ciao.